domani ed un cielo di stelle riflette sulla tua pelle sotto un morbido vento. Io non so cosa mi rende insonne, se la tua bellezza o le mie profonde colpe. Alla fine del buio non sarà che un ricordo. Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Sid & Feed dal titolo Una lunga notte. Come si chiamava questa canzone? Free AM. Quali ora i progetti per il futuro prossimo della band? Allora, beh, avremo da fare un bel po' di concerti nel nord Italia, centro Italia. Poi proprio domani discuteremo su quello che sarà il prossimo singolo dell'album. E dopodiché dovremo pensare anche alla realizzazione del nuovo videoclip. E poi cos'altro? Ah sì, a breve entreremo in studio per incidere una cover di un grande artista italiano, certo, di cui non dirò il nome perché sarà una sorpresa, insomma. Siamo al quinto brano, cosa scegli di far sentire? Sei importante. Solo per strada, non sai quanto ti vorrei. La notte appena passata, un'alba sopra i pensieri miei. Io senza di te non so se so più star bene. E perché mai dovrei far finta di sapere che tu sei importante davvero. Io che non credevo più e non trovavo un motivo, ho stato come spazzare quello di cui ho bisogno Il tempo come sempre vola e noi siamo quasi alla fine di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni. Scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it, ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il media player. Un grazie a Fabio di Seed & Feed per la partecipazione e a questo punto di nuovo a voi la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco ed un calendario di live già definiti. Allora, i nostri contatti sono, vabbè, il sito ufficiale che è www.seedandfeed.it. Poi su Facebook ci potete trovare all'indirizzo www.facebook.com/seedandfeed. La versione digitale del disco la trovate su tutti gli store digitali, tipo iTunes, Amazon, eccetera. Mentre per eventualmente ordinare la copia fisica potete scrivere a matteocaldari@inconsapevole.com. Allora, mentre per quanto riguarda i concerti, saremo sabato 28 gennaio al Dio Bar di Brescia, venerdì 10 febbraio allo Shake di La Spezia, giovedì 16 febbraio in acustico al Millennium Club di Bologna, venerdì 2 marzo all'Agorà di Cusano Milanino, domenica 15 aprile al Borderland di Pisa. Poi a breve chiuderemo molte altre date, per chi fosse interessato potrà vedere le date nuove sul sito che aggiorniamo costantemente. Brano per chiudere questa puntata? Sandali in plastica. Gianluca e Fabio di Seed & Feed vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo ospiti veronesi On Air, prog rock band che ci presenterà il disco Natural Prestige. Ciao! Memorie di vent'anni fa, tra puane e mare, l'estate nella mia città scorreva lentissime. Lunghe giornate che morivano nel sole, su queste spiagge, la pineta e il suo odore. Miei fedelissimi sandali in plastica, che ogni stagione l'asfalto bruciava. Darsena la mia vita, e ritorno da te ogni estate, le maestose dune che ti danno pace, tempo di pensare, e ritorno con te il sapore, quando il mare è calmo e ti sa cullare, non puoi resistere. Solo l'idea mi fa stare bene e sa curare la malinconia che a volte torna fuori. Ricordi di vent'anni fa, tra puane e mare, i giochi alla nostra età erano bellissimi, lunghe missioni e bagni di ore, spume ghiacciate per sfuggire al calore. L'odore che inconfondibile si alzava forte dalle barche a motore, te, le maestose dune che ti danno pace, tempo di pensare. E ritorna con te il sapore.